di Provenza il mare il suol, chi dal cor ti cancella, chi dal cor ti cancella, di Provenza il mare il suol, al natio fulgente sol, qual destino ti furò, qual destino ti furò, al natio fulgente sol, or rammento pur nel cuor chi di gioia te brillò, e che pace cola sol su te splendere ancor può, e che pace cola sol su te splendere ancor può. Io mi guido, io mi guido, io mi genitor, tu non sai quanto soffrì, tu non sai quanto soffrì, il tuo vecchio genitor, te lontano di squallor, il suo tetto si coprì, il suo tetto si coprì, squallore, di squallor, ma se al fin ti trovo ancor, se in me speme non falli, se la voce dell'onor in te appieno non muti, ma se al fin ti trovo ancor, se in me speme non falli, io mi esaudì, io mi esaudì, ad io mi esaudì, io mi esaudì. Ma se al fin ti trovo ancor, ti trovo ancor, addio me esaudì, addio me esaudì.